Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Fujiko. Siamo rientrati noi di 451 intersezioni, possiamo dire anche benvenuti a questo nuovo spazio. Lunedì scorso abbiamo svolto la prima puntata, che poi l'abbiamo chiamata puntata zero di 451 intersezioni, puntata zero che è stata condotta dal sottoscritto Elisio Scarpa e da Max Macchia, che saluto in diretta e gli auguro anche una buona guarigione dato che si è ammalato, dunque un caro saluto. Informazione di servizio, così tanto per fare la radio in maniera quasi appunto colloquiale, non riesco a passare stasera, dunque ci sentiremo in questi prossimi giorni. Ovviamente buona guarigione, una radio fai da te un po' alla vecchia, modello anni 70, vi ricordate il famoso, la famosa battuta degli Skiatos, mamma butta la pasta mentre appunto vado in onda, un po' in questa maniera stiamo svolgendo questo tipo di trasmissione. E 451 intersezioni, lo ricordiamo ancora come spazio nuovo che si aggancia anche ovviamente a 451 frammenti sonori, siamo sempre noi. Ricordo anche chiaramente che mercoledì prossimo, sempre dalla mezzanotte alle 2 circa, ci sarà Max Macchia, se guarisce, oppure io in conduzione per 451 frammenti sonori, mentre 451 intersezioni è lo spazio che avremo in questa stagione i primi tre lunedì di ogni mese, dalle 8 alle 9, dunque nel Rata Corrige, dato che la scorsa settimana avevamo detto che lo spazio andava diciamo dalle 8 alle 21:30, non dalle 8 del mattino ovviamente, dalle 20 alle 21:30. Dunque in realtà saremo dalle 20 alle 21. Il quarto lunedì di ogni mese invece ci sarà uno spazio che verrà autogestito collettivamente da vari soggetti, da varie realtà, per ricordare, per creare una sorta di collegamento con la trasmissione che è stata in auge qui a Radio Fujiko per molti anni in questo orario, che era condotta dal nostro caro amico e compagno Pier Antonio Pezzinga, che ci ha lasciato, è scomparso il marzo scorso. E dunque ci sarà appunto questo tributo nel corso della stagione da parte di varie persone collegate, amiche di Pier Antonio, che svilupperanno un loro percorso sonoro, mentre noi cercheremo di portare avanti quella sorta di filo rosso che aveva già unito 451 frammenti sonori e intersezioni inediti live di Pier Antonio Pezzinga già nello scorso anno. Ma quest'anno appunto cercheremo di sviluppare un discorso sonoro, musicale e chiaramente anche politico, perché lo spazio di Pier Antonio era colmo di riflessioni, notizie politiche, ovviamente nel nostro linguaggio, nella nostra maniera di 451. E stasera, per partire come puntata 1 condotta dal sottoscritto, il tema che svilupperemo, oltretutto molto caro a Pier Antonio, è quella dell'improvvisazione radicale, in particolare il titolo, che è un po' provocatorio e gioca un po' anche con i termini e con le definizioni, si intitolerà Impro no Impro, e questo sarà il primo capitolo di varie puntate che nel corso della stagione cercheremo di sviluppare. Impro no Impro che cosa significa? In realtà significa tutto il contrario di tutto, nel senso che affronteremo la materia dell'improvvisazione radicale, ma anche delle sonorità, degli sviluppi musicali che in realtà si collegano ma sono altro, dunque non sono improvvisazione, ma sia per gli autori che per lo sviluppo musicale si possono collegare all'improvvisazione radicale, ma in alcuni casi oltretutto sembrano molto distanti. E in questo senso cercheremo di articolare a livello musicale un primo percorso stasera appunto nella tematica Impro no Impro. E il primo autore, il primo progetto, che oltretutto è stato fatto ad hoc, questo disco in particolare in ricordo dei Soft Machine e da parte dei Delta Saxophone Quartet, Dedicated to You But You Never Listening, The Music of Soft Machine, in particolare Hugo Hopper, appunto Delta Saxophone Quartet, disco uscito nel 2007, che si muove nell'universo ricordando chiaramente il lavoro dei Soft Machine, un universo molto molto dinamico, quasi un calderone di sonorità e di sviluppi musicali, dove l'improvvisazione si accenna, c'è un richiamo, ma in realtà poi si sviluppa tutt'altro in termini di magma musicale. musicale, e in questo senso può entrare di più dentro il concetto del no impro, e in maniera provocatoria iniziamo proprio con loro. Disco molto amato da Pierantonio, e proprio per questo ho voluto iniziare la puntata di stasera omaggiando Pierantonio attraverso questo lavoro splendido di matrice jazzista, ma non solo, appunto attraversa l'impro, il free e anche una certa coralità e orchestralità nell'utilizzo soprattutto di fiati magistralmente suonati da questa formazione. Andiamocelo dunque a sentire, traccia 2 del disco Dedicated to You, e in particolare But You Never Listening. Andiamocelo a sentire, appunto, Delta Saxophone Quartet. Delta Saxophone Quartet, lavoro assolutamente importante questo sviluppato da questa formazione. Ricordiamo i principali componenti che poi costituiscono questa orchestra di fiati estremamente suggestiva. Si tratta del sassofonista alto Pete Wyman, poi il baritono Chris Caldwell, al soprano Graeme Blavis e al sax tenore Tim Holmes, formazione appunto che omaggia e dedica questo lavoro alla grande formazione degli anni 70 dei Soft Machine. E dal noimpro, potremmo dire, del Delta Saxophone Quartet entriamo proprio dentro l'universo improvvisativo, seppur estremamente aperto e diciamo soggetto anche a stimoli esterni all'improvvisazione tout court. Si tratta oltretutto di un cofanetto splendido che in passato all'interno anche di 451 frammenti sonori abbiamo utilizzato, anche perché veramente è un universo di stimoli e di lavori quasi infinito, essendo ben 10 CD che raggruppano fondamentalmente negli anni zero, nei primi anni zero, i lavori più interessanti della scena giapponese improvvisativa. Si tratta del cofanetto Improvised Music from Japan e in questo caso abbiamo selezionato un CD, il nono, che non è stato mai inserito all'interno dei 451 frammenti sonori, dato che qua parliamo, dialoghiamo fra gli due spazi, ma essendo ovviamente collegati, andiamo a pescare un autore piuttosto giovane, un sassofonista, oltretutto clarinettista, che si muove negli anni zero nella scena improvvisativa, ma in maniera assolutamente aperta a contaminazioni e a influssi anche estremamente nuovi e sorprendenti, soprattutto attraverso connessioni con l'elettronica d'avanguardia, ma anche con una certa musica connessa non solo al jazz, ma anche a tutte le forme estremamente indefinibili delle musiche d'avanguardia. Lavora su questo territorio dove appunto l'improvvisazione si lega anche a strutture ripetitive, quasi ipnotiche, una batteria che sentiremo molto lo-fi in sottofondo, che però cadenza il brano, e sopra c'è questo organo che è molto suggestivo, che ricorda anche certe dimensioni della musica cosmica, di un certo minimalismo. E a questo punto dobbiamo citarlo, questo autore, Masahiko Okura, che appunto in questo lavoro di WWW sviluppa questo concetto di improvvisazione estremamente aperta e estremamente suggestiva. Un brano che a me ha catturato particolarmente, che mi ha estremamente incuriosito e anche affascinato, e a questo punto speriamo anche voi ascoltatori rimaniate colpiti da questo lavoro. Dunque ci spostiamo in termini sonori, in termini anche di universo, dentro l'impro, in questo caso di Masahiko Okura, tratto appunto dal cofanetto splendido che vi consigliamo caldamente di andare a reperire in qualche maniera, non diciamo altro, Improvised Music from Japan, uscito nel 2001, cofanetto assolutamente seminale per l'improvvisazione degli anni zero. A questo punto andiamocelo a sentire, questo lavoro appunto tratto dal nono CD. E siamo rientrati in diretta a questo lavoro ipnotico assolutamente incredibile a livello appunto di ipnosi sonora, lavoro ricordiamo tratto da questo splendido cofanetto Improvisation the Music from Japan, Masahiko Okura, che lo sentiamo ancora in sottofondo con altre elaborazioni, in questo caso al sax, lavoro assolutamente da seguire questo del cofanetto legato all'improvvisazione a tutto tondo dell'universo giapponese, e da questo mondo andiamo a trovare invece Terre Europee, un progetto collettivo europeo squisitamente legato all'improvvisazione, progetto che attraversa musicisti sia inglesi che belgi che svizzeri che tedeschi, un collettivo chiamato Paul Weschlel, costituito da Werner Defeldecker, John Butcher, Michael Moser, Barnack Stangl, Radu Vanfatti, Barkan Bynes, Martin Brandmeier. Alcuni sono autori che attraversano anche altri progetti di improvvisazione, anche di progetti connessi all'avanguardia e in alcuni casi anche all'elettronica applicata a certe dimensioni connesse alla contemporanea. Infatti l'album che andremo a sentire già ha degli echi legati alla musica contemporanea, essendo anche ovviamente connessa a quartetti d'archi, a chitarre, a tromboni, a percussioni. Si tratta dell'album uscito nel 2006 per Fatology, etichetta svizzera Archives of the North, appunto dove l'universo improvvisativo si inserisce dentro un contesto che richiama anche molto la musica contemporanea e certe dimensioni chiaramente jazzistiche, che in ogni caso stasera saranno un po' il trade union di questo percorso di impro no impro. A questo punto ce l'andiamo a sentire, anche perché il tempo è sempre abbastanza tiranno, soprattutto in un'ora, dunque dobbiamo concentrare l'apparato musicale contro, diciamo, la parola, almeno fino a che non prenderò io stesso un po' le misure di questa dimensione sonora. In questo momento dunque andiamoci a godere insieme Archives of the North, Paul Weschlel. splendido lavoro questo realizzato da questo collettivo Paul Wechsler, costituito appunto da vari autori e musicisti della scena europea che abbiamo già precedentemente in parte elencato. Abbiamo sfumato chiaramente una session improvvisativa estremamente lunga, ovviamente abbiamo fatto ascoltare un estratto, un disco comunque che vi consigliamo vivamente, che vi consiglio vivamente, Caves of the North, uscito per Atology esattamente nel 2006. Ci andiamo invece adesso a spostare in terra australiana, dentro l'universo no impro, potremmo dire, perché l'improvvisazione praticamente attraversa l'atere quest'autore e i progetti che numerosissimi oltretutto che ha realizzato, pur essendo un autore molto giovane, solo 34 anni, ha iniziato giovanissimo alla fine degli anni 90, inizio anni zero la sua attività, autore australiano nato a Melbourne, si tratta di Ben Frost, autore assolutamente eclettico, oltretutto politicamente e anche socialmente molto impegnato, schierato chiaramente molto vicino alle nostre posizioni, oltre possiamo dire la concezione, l'etichettatura di sinistra, diciamo un'area libertaria che lui attraversa oltre che sulla scena musicale anche ovviamente sulla scena politica e sociale. Ben Frost poi esattamente nel 2005 si spostò dall'Australia in terre estremamente glaciali, cioè l'Islanda, per costruire poi insieme ad altri autori tra cui Nico Muli e Valger Sigurdsson una vera e propria etichetta collettiva, Bedroom Community, con cui ha iniziato a produrre i suoi materiali e anche altri progetti collaterali. Il disco che andiamo a pescare da parte di Ben Frost è un disco uscito nel 2009, splendido lavoro, By the Fruit, ovviamente difficilmente catalogabile, si muove tra l'astrattismo concettuale a dimensioni droniche, in alcuni casi anche elementi noise, e dimensioni appunto estremamente accennate anche connesse all'improvvisazione. Ben Frost, poi interessante ricordare questo elemento, oltre ad aver costruito un album splendido nel 2010, Solaris, in omaggio allo splendido lavoro filmico di fantascienza di Tarkovsky degli anni 70, ha praticamente passato gran parte del 2012 nel Congo per documentare a livello audio ma anche video la sanguinosa guerra che ha attraversato appunto il Congo nel 2012. Nel 2013 questo lavoro è stato esposto in una sorta di installazione audio-video alla Biennale di Venezia. Lui è stato molto colpito appunto da quell'esperienza, come ultimamente si sta interessando a altri conflitti in tutto il mondo per cercare, diciamo, attraverso la voce della musica d'avanguardia, la sperimentazione, diciamo anche attraverso una sorta di microfonazione audio soprattutto, ma anche video, perché si sta interessando anche a una parte più squisitamente video, questi massacri e queste dimensioni terrificanti che spesso nella dimensione occidentale, vedi l'Italia, insomma vengono toccati solo relativamente, sembrano molto lontani, in realtà sono estremamente vicini. Ben Frost dunque ce l'andiamo a sentire in questo brano, in questo estratto dall'album By the Fruit, che rappresenta molto bene l'idea anche della no impro e diciamo questo panorama, questa dimensione estremamente aperta, dunque dove attraversano i binari dello sviluppo musicale varie concezioni e vari linguaggi che attraversano appunto il noise, l'astrattismo sonico, l'aspetto dronico e l'avanguardia anche che si avvicina appunto all'impro. Andiamoci a sentire dunque Ben Frost, buon ascolto. Rientrati correndo un pochettino con il tempo, perché chiaramente ormai è tiranno, ci avviciniamo alle 21, dopo questo splendido lavoro che abbiamo ascoltato di Ben Frost da By The Fruit, uscito nel 2009, ci avviamo verso la fine di questa, di questo primo capitolo, potremmo dire, di Impro No Impro, con un collettivo anch'esso europeo come il precedente a Ben Frost di Paul Feschel, costituito da Varian Weston, Ingrid LaBrooke, Annick Marshall, dall'album Haste, uscito nel 2012 per la Emanem. Lavoro che si muove sull'improvvisazione con chiari riferimenti al territorio jazzistico, mantenendo appunto comunque intatta quell'idea di radicalità improvvisativa tipica di molti progetti, soprattutto di matrice europea. Un lavoro che chiude, diciamo, questo spazio, questa puntata 1 di 451 intersezioni. Prima di mandare in onda l'ultimo brano, ovviamente vi ricordo che saremo presenti lunedì prossimo sempre dalle 20 alle 21 come 451 intersezioni, con un'altra tematica. Non svilupperemo chiaramente il capitolo 2 di Impro No Impro, che affronteremo successivamente, anche perché la materia improvvisativa era una materia molto amata dal nostro caro Pierantonio Pezzinga, che ricordiamo sempre all'interno di questo spazio radiofonico, anche perché l'idea di 451 intersezioni, appunto la continuazione di questo filo rosso con la vecchia intersezioni di Pierantonio Pezzinga. Ricordo chiaramente sempre lo spazio di 451 frammenti sonori, che va in onda chiaramente mercoledì come al solito da mezzanotte alle 2 circa. Dunque non perdetevi anche questo appuntamento. Io vi lascio con questo collettivo costituito da Varian Weston, Ingrid LaBrooke, Annan Marshall, dall'album Haste, e ovviamente ci risentiamo per la prossima settimana, oppure chissà mai, sorpresina, anche mercoledì prossimo. Un punto di domanda: se sarò io o il caro Max Macchia, ma quasi sicuramente Max Macchia, che è bello forte e tonico e supererà l'influenza da buon compagno sicuramente. E ovviamente vi lascio poi agli ascolti delle puntate, delle trasmissioni successive di Radio Fujiko. Buonanotte da Elisio Scarpa.